due minuti di ritardo. A Bari su, c'hai rotter cazzo, eh. A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Cruciani, mi sono appena fermato a prendere le sigarette e c'erano sei anzianotti, stavano parlando animatamente di Librandi. Allora mi è venuto in mente Parenzo e ho chiesto a questi signori: ma se voi vi trovaste un ladro in casa e nello stesso momento passasse davanti alla finestra di casa vostra Librandi, a chi sparereste per primo? E la risposta è stata quasi unanime: tre prima Librandi, e gli altri tre prima Librandi e dopo al ladro, per cui virtualmente avremo tre ladri salvi. Lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Buonasera Giuseppe, buonasera rotto in culo di Parenzo. Parenzo non si entra nell'angolo rotture della zanzara. Ma io ti vorrei far vedere come so ancora adesso a 86 anni, bello mio. Ma non attiro niente perché non me va ad attirare nessuno. Ma gli ammollerei e come? Ma fatela a fare i tuoi, a Parenzo fatela a fare i tuoi. Oh Parenzo, oggi a Palermo c'erano i mezzi pubblici pieni pieni di immigrati, degli amici tuoi immigrati che ne sono arrivati qualche mille direttamente nel capoluogo siciliano. Sei contento con la polizia che li scortava e loro che giravano per la città? Ieri ho sentito pure un servizio che in Sardegna ci sono più immigrati che persone, ci sono più immigrati che pecore in Sardegna. Parenzo, e tu ci fai sponsor all'immigrato? T'ha vergognare Parenzo, se una cosa è mia e sì, Parenzo, prima o poi te vengono a scasso tutto, Parenzo! Parenzo! Il solito grillino! Ammiratore del Duce grazie, a chiudere questa introduzione. Grazie. Ti voglio subito riferire una cosa, caro David. La cancelleria privata del Divino Telma comunica che sono in corso le procedure per la celebrazione di un possente rituale magico collettivo. Non era un treno, sai, le navi, le grandi navi. Era il rumore di una nave in parte. Era un commento per il Divino. Il rituale magico collettivo analogo a quello pre-referendum del dicembre 2016, felicemente svoltosi lo scorso anno. Ma felicemente per chi? Volto alla sconfitta del partito del Duce Puffo, come lui chiama Renzi. Sarebbe Renzi, d'accordo. Avrà luogo sabato sulle colline di Firenze. Ottimo, con la partecipazione di 20 operatori giunti da ogni parte d'Italia. Ma figurati, 20 comparse, 20 miserabili, 20 sbandati. Sarà possibile per ogni cittadino partecipare anche da casa. Figurati. Così contribuendo, come la scorsa volta, alla sconfitta sonora del Duce Puffo e dei suoi servi. La solita cazzata. I patrioti che vorranno partecipare al rituale si vestiranno di bianco dalla vita in giù. In alternativa ai nudi e collocheranno al suolo gente nuda e collocheranno al suolo o sul pavimento di casa una immagine del Duce Puffo. A mezzanotte deporranno il piede sinistro nudo sulla predetta immagine e per 7 volte consecutive ripeteranno a voce alta questa formula: tu perderai la stolta battaglia contro il popolo italiano. No, Matteo Renzi, tu sarai sconfitto ancora una volta come nel dicembre scorso. Il popolo italiano ti schiaccerà sotto il suo possente tallone. Il rituale è esperibile anche in gruppo purché il numero sia dispari. Sì, in ospedale lo puoi fare. un reparto specializzato. Tra l'altro ti voglio segnalare che anche il Divino Telmo è contro lo Ius Soli. Sì, dice rituale magico sulle colline di Firenze, sì, contro il partito del Duce Puffo e lo Ius Soli, in difesa degli italiani minacciati dal Duce Puffo. Sai che sarebbe uno straordinario confronto tra Parenzo contro Telmo sullo Ius Soli? Sarebbe straordinario. Ma non ci può confrontare con il nulla. Il nulla, il nulla che si veste come un guitto, come un uomo del circo. Dai, ma è una roba incredibile. Comunque mai in vita mia avrei pensato di dover sostenere, di dover dare sostegno, solidarietà a Don Livio Fanzaga, amico mio. Perché, per carità, ne ha combinate di tutti i colori, ne dice di ogni, Radio come Maria, noi, tu dici, no? Radio Maria. Contro la legge Cirinà si è battuto, contro i gay, eccetera. Noi siamo dall'altra parte della barricata, come è noto. Però ognuno è libero di dire quello che vuole. Ricordiamo la frase che è sotto accusa, è stato sospeso per sei mesi. Ma ti credo, ma no, giustamente. Ma ti credo un cazzo. Bisogna difendere la libertà pure di Fanzaga. Libertà per Fanzaga, libertà. Ma lo dica da un'altra radio. Ma lo dica come vuole, dai. Si sono sentiti evidentemente. Ma se la Cirinà si sentiva offesa, vada la magistratura. No, ma non la Cirinà, è fuori. È la radio che l'ha sospeso, il signor Fanzaga. No, no, l'ordine dei giornalisti. Vabbè, meglio, giusto. No. È stato interessante studiare l'intervento introduttivo di Monica Cirinna. Lei questa qui mi sembra un po' la donna del capitolo 17 dell'Apocalisse, no? La Babilonia, insomma, che adesso brinda prosecco alla vittoria. Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla. Glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello. Allora, la frase fu ovviamente pesante, no? Cioè, mamma arriverà mia. Il suo funerale. Mamma ma è per mia. Questo che, non, che deve essere cacciato, che si deve zittire, che non può parlare per sei mesi. Ma di che parliamo, ragazzi? Su, basta con queste follie, no? Prima Facci, poi Fanzaga. Ma che cazzo vogliono questi qua? Questi burocrati maledetti. Sì, sono dei burocrati. Sono dei burocrati. Non rompessero i coglioni. Se qualcuno vuole denunciare Fanzaga, se qualcuno vuole denunciare Facci, lo vada in tribunale, eccetera. Lo cosa... Facci in tribunale. Lo Facci in tribunale, non rompe i coglioni, dai. Un'altra cosa che mi fa girare i coglioni sono i centri sociali di Torino. Ora, i signori di Ascata sulla... Sì, io non me la prenderei troppo con loro, perché non sono così moderati. Sì, ma io me ne fotto. Quelli che dicono giusto, la polizia giusto. Non deve stare in piazza, è una provocazione. Mica lo decidono loro. La polizia rappresenta lo Stato. Voi Bravo. Non siete lo Stato, d'accordo, siete un centro sociale che se è occupato dovreste andare via a calci nel culo. Se occupate uno stabile. Perché sei a favore delle occupazioni tu? No. No, in generale, allora, assolutamente. Come no, ti batti contro le occupazioni di Casa Pound? Dovresti batterti contro le occupazioni se è un centro occupato. Sì, non, certo. Come è probabile che lo sia. Dunque se occupano lo stabile, innanzitutto vadano via dal loro stabile, perché sono illegali. Esatto, ma poi non decidono loro dove deve stare, allora, la polizia. Il sindaco di Torino, che noi abbiamo criticato altre volte, ha preso una decisione perfetta, che è quella di vietare la vendita di bibite da asporto, di alcolici da asporto, dopo le 20 in alcune quartiere di Torino, perché la gente bivaccava con le bottiglie di vetro. Qui a Milano ci sono problemi analoghi, bisogna prendere gli stessi provvedimenti qui a Milano. Ha fatto benissimo, e per far rispettare questa ordinanza ci vuole anche la polizia, che ogni tanto viene aggredita da questi imbecilli che poi si presentano in televisione, come questa qua che si chiama, non mi ricordo come, Rinaldi, la quale dice c'è stata un'imposizione, è andata in televisione col collare al collo, sarà caduta, avrà preso qualche manganellata, ma chi se ne frega. Se sei lì a rompere i coglioni alla polizia, a opporti alla polizia, è giusto che ti prendi qualche manganellata, è normale che sia così. Nel casino ci scappa la manganellata, ma è normale. Magari qualcuno lì ha esagerato, ma è sfuggito, non lo so, il controllo, ma non è importante, piazza, non è successo, insomma, nulla, un collare, non è successo niente. Beh, però sai, è tutto devastato, insomma, non è stata una bella immagine, è una buona gestione anche sì, ma lì. Senti quello che dice, sentiamo, questa. Sentiamo, perché... Il problema è che si stanno applicando dei decreti sicurezza come quello Minniti, che fanno sì che non ci poniamo più domande, che non rispondiamo col cervello, ma che rispondiamo con la forza, in un modo militare. Allora, ma che ti frega te che c'entra Minniti con l'ordinanza, eccetera? Cosa c'entra? Non c'entra nulla. Rispondiamo in modo militare. Ma quale militare che fa il cazzo del comodo tuo ogni giorno? Che stai lì ad occupare uno stabile? Se ci fosse veramente l'occupazione militare, dovrebbero sgomberarti domani mattina da dove sei, se sei illegale. Ma che dici? Ma quale imposizione militare che fa il cazzo che vuoi ogni giorno e stai lì a rompere i coglioni alla polizia? Ma guarda che è incredibile. Poi si scontra contro un leghista che si chiama Ciocca. sicuramente mi sarei allontanato, ripeto, da balordi che intonano cori contro le forze dell'ordine e si permettono di sputare contro le forze dell'ordine. Questa è una vergogna, cioè se lei fa parte di questo gruppo, se lei fa parte di questo gruppo dovrebbe provare vergogna in questo momento. Le faccio una domanda secca, scusi, Non è una vergogna militarizzare la piazza, no, non è una vergogna. La polizia tu la consideri tua nemica. Tu la consideri, la gente normale vede la polizia e dice bene che ci sia la polizia qua, almeno c'è sicurezza, certo, almeno c'è posso passeggiare. Bravo, sì, ma è normale che sia così. Bravo. È una vergogna militarizzare la piazza. Ma quale militarizzare, amica mia, che fai quello che ti pare dalla mattina alla sera? Quando è che chiudete, cornuti? Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta La Zanzara. Campalemma che non arderò in lando, dove si coinuterò in lando, l'amico tuo, Parenzo, massone mafioso. A chi non arrivare, sei tutta una combriccola, si ti sei piaciuto. Ora fa conto che avevi una cena qua in lando, ti hanno dato queste cose a te. Ma non ti preoccupare, questa è stata un finto passo falso. Andremo prima alla regione Sicilia e poi al governo italiano e facciamo un po' di pulizia. È il primo cacciamo, covigliamo a cacchinato in tuo culo su tu, Parenzo, tu in persona, calci nel culo ti diamo, caccagnato in tuo culo! Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, c'è stato uno scontro, credo ad Agorà, Parenzo, tra Farinetti... Attento, prima c'è una comunicazione ufficiale che devo fare. Dimmi. Mi hanno segnalato che oggi una persona che è candidata a sindaco di Padova, tal Bitonci, ha rilasciato un'intervista... 40% a primo turno, cioè Bitonci, Non lo so, un quotidiano che credo si chiami Libero, lo stesso che fa riferimento a quel sito, allo stesso sito, liberoquotidiano.it. Benissimo. Questo signore, della faccia molto breve, nel titolo dice: "Iene Parenzo, ho tutti contro, per questo piaccio ai padovani". E poi dice: "Fortunatamente alla Zanzara c'è Cruciani che mi difende". Vabbè, quindi insomma, queste sono due cose. Sì, fossi a Padova, ho già detto, fossi a Padova, ecco, voterei certamente per il signor Bitonci. Ma senza ombra di dubbio. Noi con Cruciani sta con questo signore qui, tal Bitonci. Voglio dire una cosa, aspetta, apro una parentesi. Prego, apro una parentesi. Scusami, sì, la parentesi prego, è questa. E se il signor Bitonci vuole, noi con Cruciani, che è questo partito virtuale che però attraversa tutta l'Italia, è pronta a fornire un appoggio nel caso in cui lei vincesse le elezioni, signor Bitonci. Totalmente. Noi offriremo un appoggio. Noi con Cruciani offriremo un appoggio magari per un assessorato. Ma un assessorato alla sicurezza, capisco che è impegnativo. Però un assessorato ai grandi eventi. Ma non ci sono grandi eventi. Cioè, noi siamo pronti ad appoggiare il signor Bitonci in questa sfida importantissima di domenica. Io invece faccio un movimento noi per Cruciani. Siamo pronti ad appoggiare. Io invece annuncio che da venerdì fino a domenica sera, fino alla chiusura dei seggi, sarò a Padova per vigilare sul voto, come si fa nei paesi a rischio. Non c'è bisogno di niente. Girerò seggio per seggio per vedere. No, io vigilerò. È una butade, ma è vero? Io vado a Padova, ti assicuro. Io venerdì trasmetto da Padova e sarò a Padova venerdì, sabato, domenica, vigilerò sul voto. Come si fanno come gli ispettori, sai quelli che vengono mai dall'ONU in genere nelle zone un po' critiche? Sì. Bene, vigilerò sul voto con la pettorina, ci sarà scritto Parenzo, no, girerò fuori dai seggi, questo non credo. Sì, per verificare che tutto sia regolare, perché guarda, ma in che senso? Scusa, pensi che ci siano dei brogli a Padova? No, non ho capito. No, questo non lo dico, per carità, lo dici tu. Sarò a vigilare in città. Parenzo da venerdì sarà a vigilare in città sul tranquillo svolgimento di questo importante momento democratico. Sarò a Padova da venerdì. Allora, Farinetti sì, ha litigato con una giornalista che le ha detto, che non paga bene le persone, che sottopaga le persone. Giustamente quello si è incazzato, che cazzo vuol dire? Sentiamo. Perché io vorrei sapere come ci si possa fidare di un imprenditore, per esempio, come lei, perché io ho tanti amici che lavorano da Italy, che poi paga gli straordinari forfettariamente, oppure gli inquadramenti sono da carrellista quando la gente si occupa dell'amministrazione o giustifica il fatto che a fine turno bisogna frugare dentro le borse dei suoi dipendenti, e l'ha dichiarato lei al Fatto Quotidiano qualche anno fa. Vabbè, perché effettivamente con 800 euro siamo poveri. E dispiace dirlo, ma non possiamo lavorare insieme se poi appunto non ci pagate. Siccome ha detto 8 bugie una dietro l'altra, sì, e molto gravi, e siccome abbiamo deciso ormai insieme i nostri lavoratori, 2000, con cui abbiamo una grande armonia, di querelare quelli che dicono queste bugie, è già avvenuto, e fonti da lei citate sono state querelate, hanno perso, hanno pagato. Vorrei pregarla di non permettersi mai più di dire delle cose così gravi senza nessuna ragione, perché sono bugie. E poi cercherò di sapere chi è e la querelerò, e lei dovrà pagare per le bugie gravi che ha detto, perché non si fa così. Lei sarà querelatissima per questo, e si vergogni di andare a dire delle bugie del genere con questa approssimazione, senza sapere nulla, così tanto per dire. L'informazione non può essere così, perché c'è gente che lavora e si impegna, sì, si fa il mazzo, sfruttato, certamente. Poi ci sono state le proteste contro Carta Bianca, che è la trasmissione che ha mandato in onda questo confronto. Non capisco perché le proteste. Questa ha detto una cosa, Farinetti ha risposto. Se vuole, se si sente come dire offeso, querela. Cioè, non capisco perché uno deve prendersela con la trasmissione. Cosa c'entra la trasmissione? Con la trasmissione? Ma sono le solite cose della RAI, eccetera. Ma non lo so, ma ci sono proteste, eccetera. Non doveva permettersi questa qua di insultare Farinetti. Farinetti, che io conosco benissimo, ha tutto il diritto di rivalersi contro questa, se ha detto delle cazzate. Punto e basta. Dai. Allora, Clotilde da Roma, dai, Clotilde. Io poi non so se sono vere quelle cose, probabilmente no, probabilmente. Ma non lo so, la gente. Ma figurati. Ma non lo so, adesso questa ha detto delle cose, si assume la responsabilità. Ma io immagino di no. Speriamo che venga querelata, scuoiata viva dai tribunali. Ma perché? Perché prendi subito le parti di Farinetti? Non ho capito. Perché se uno dice una menzogna, ma che ne sai? Conosci la situazione, è talmente grave. No, intanto non mi risulta che sia così. Poi è una situazione talmente grave che se ha detto, voglio dire, puoi accusare se non hai le prove, uno in televisione, ma non so, magari le avrà, Ma no, ha detto una serie di cose, non è che non pagare, ha detto una serie di cose. Clotilde, vai, Clotilde. Siamo agli schizzi di fango. Ventilatore, dimmi, con gli schizzi, dimmi, di fango. Dimmi. Scusami, Michele, sono in diretta alla radio. Ti richiamo tra due minuti. Vabbè, fermi tutti, ragazzi, ci sentiamo troppo. Fermi. La Zanzara. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Allora, guarda, tu non mi credi? Io vorrei parlare di fica. Tu sei un delinquente! Tu sei l'ultimo dei delinquenti! Perché stai facendo, Palenzo, il gioco più sporco contro gli italiani! Contro gli italiani! Ma se tutte le volte che vado a Milano in stazione centrale vedo sempre un casino di africani che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Ma dai, ma su, ma per favore, ma non diciamo le stronzate, per favore. Ma io, cioè, mi sono rotto il cazzo, ci siamo rotti il cazzo, ci siamo rotti il cazzo, ma di brutto, ma lo vuoi capire, sì o no? Cioè, tutte le volte io al mattino scendo, mi becco sempre il solito africano che chiede l'elemosina. Io ho detto, vai a lavorare. Sai cosa mi ha risposto lui? Non ne ho voglia. Non ne ho voglia, non ne hai voglia. Ma ti prendo a calci nel culo, non hai voglia, porca troia. Mi fa qualcuno 12 ore al giorno e tu non hai voglia di fare un cazzo. Ma cosa cazzo ci viene a fare in Italia allora? Cosa? Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fa l'80024-0024. Oppure se volete mandare un facile messaggio, coppa WhatsApp 393-71-71-701. Naturalmente. E intanto Parenzo, a Prato hanno sequestrato il tesoro dei Rom. 2 milioni e mezzo vivevano ovviamente in case popolari, e questo che fa incazzare, non tanto che non occultano dubbio dei soldi, perché quello ovviamente quando lo fanno reato, anche reato è giusto arrabbiarsi sempre, vivevano in case popolari, noi siamo signori per la Rom della famiglia Akhmetovic a Prato. Akhmetovic. Poi uno dice che non si incazza con no, quelli che uno dicono, uno si deve con i criminali si deve arrabbiare, non in generale con gruppi etnici, ma capito? Non è questione questo di gruppi etnici, è questione che è sempre no, la solita soffa. Io contesto soltanto questo a te e al mi pare si chiami Bitonci che ma che c'entra Bitonci? Che me ne frega di Bitonci, diciamo, a voi della vostra area. Io ma questo non ho nessuna, cioè, area. Che voi ne fate una questione di etnia. Forza Bitonci, forza Bitonci, cioè, forza Bitonci, forza Bitonci, forza Bitonci. Ritenete, sarò a Padova a vigilare perché guarda. Forza Bitonci, forza Bitonci, forza sono Bitonci. Sono come le forze ONU. Però si rischia, però si rischia, però si rischia. Vigilare come quando sono le elezioni a Teheran, uguale devo andare, uguale. Domani ovviamente darò l'indirizzo di casa di parenza da dove trasmetterà, no, è ovvio, no? Per carità di Dio, stai buono che già ci sono tanti problemi. Vivevano in case popolari a Prato, questi signori rom, sette persone della stessa famiglia, siamo che avevano sono un tesoro, ma non c'è molto di da dire, 2 milioni ladri e mezzo di euro, ma in chi nero. Ma chi li difende? Guarda, se, su, ragazzi, se chiama qualche stronzo adesso, dai, che osa dire basta, che io difendo questi ladri. Sì, tu li difendi. Io mi tu difendi alzo perché e secondo, me ne vado. Perché guarda, secondo te questi sicuro, qua, questi qua, questi qua andrebbero aiutati a trovarsi, no, delle case normali. I ladri normali non vanno aiutati per nessuna casa normale. Se uno è alla casa popolare ma in realtà c'ha un tesoro nascosto, per me è un ladro perché sottrae la casa popolare a chi ne ha veramente, vabbè, bisogno. Ma intanto lo dici adesso, ma intanto lo dici adesso, l'ho sempre sostenuta questa cosa lo dici qua adesso. Ma figurati, allora viene criminalizzato un commerciante il quale espone un cartello: qui c'è il 100% di personale italiano. Vabbè, ma perché è un crimine, inizia, adesso mi pare è un un'iniziativa crimine, assurda, è un come crimine dire 100% che c'è 100% lana, 100% lino. Scusa, ma se insomma, uno vuole persone comunicare all'esterno, vabbè, quindi che nel suo locale ma c'è il 100% di personale italiano, potrà farlo oppure un razzista? Beh, no, mi pare una appunto, mi pare una grande stupidaggine. Cosa vuol dire 100% italiano? Cosa vuol ma dire? Ma cosa vuoi? Sentiamo, cosa si chiama Nardin, si chiama Nardin, ma che Veneto. Senti. Sì, certo. Certo. No, lo tolgo perché è un'autocertificazione. Questa qua. Personale 100% italiano. Vuol dire quello che è scritto. Io dichiaro come faccio la pizza e dichiaro chi ci lavora dentro. I cinesi assumono i cinesi, i rumeni assumono solo i rumeni, i marocchini assumono solo i marocchini. Si parla di Jussoli, Jussoli. E non so cosa che sia, cosa sia Jussoli. Ti rendi signor Nardin, ha ragione, la gente non capisce. Fate ma le leggi gente, in italiano. Fate gente, le leggi in italiano. Non chiamate la legge Jussoli. Chiamate la legge. Ma questo, guarda, ti sicuro, questo qua non è la gente non capisce. Io odio sta roba. La gente non capisce. Capisce. Quando tu gli dici Jussoli, vogliamo scommettere. La gente adesso che faccio capisce? Fare un sondaggio. Faccio fare un sondaggio tra il popolo. Ma le persone vanno anche educate. Vanno anche come dire. Ma presentate una legge in italiano, non in latino. Dai, su, col titolo della legge in italiano. Lo Jus Soli in italiano, Jus, mettetelo. Jus diritto, no? Solum Soli vuol dire suolo. Così qualcuno, ma perché sei contro il fatto che la gente impari? A me piace imparare delle cose nuove. Le persone che ascoltano questi imbecilli, no, ma voglio dire, ma questa gente che senti questo ristoratore 100% italiani, Nardin, 100% pirla questo qui. Abbiamo un'ottantina di pizze, diciamo, tutte con nomi veneziani, parte da Murano ai veneziani, Chioggia, cioè tutto in base a località veneziane abbiamo i nostri nomi. Allora, eravamo con Clotilde da Roma. Clotilde, eccomi. Da Roma. Vai, Clotilde. Clotilde qua. Allora, dunque, io chiamavo per una cosa che ho sentito dirle ieri, no? Sì, dimmi. Quel fatto della coppia marocchina. Sì, così sembra, non abbiamo ancora notizie, Sì, no, certo. Ma a parte quello, a me non mi interessa. Volevo via, dirle. Via. Destiamo allarme questa subito, via, avanti, dai, forza, no, su. No, oh, Parenzo, calma un attimo, io non sto calma parlando niente. Dei marocchini. Calma, calma. Destiamo perché subito ti scaldi subito con Clotilde? No, ma perché non ti arrabbi subito con Clotilde? Secondo te mi interessa no, qualcosa di Clotilde a te? Ma perché non ti interessa di Clotilde? Verosimilmente, a me può interessare qualcosa di Clotilde? Ma non interessa di Parenzo, lo faccia tacere. Comunque, ma secondo te mi interessa quello che dice Clotilde? A me adesso prova a ragionare. Ecco, brava Clotilde, brava. Mi sembri una con i coglioni, Clotilde. Mi sembri una con le palle. Beh, no. Magari quelli no, grazie a Dio. Ma le palle così metaforiche, diciamo. Metaforiche. Molto metaforiche. Ah, perché non sei trans? No, pensavo no. Fossi un trans, scusami. No, no, no. Lo so, ho una voce un po' particolare. Mi sembravi una bella trans di quelle toste. No, per carità, va bene uguale. Ho una figlia, un nipote. Vabbè, questo assolutamente. Vabbè, allora comunque, lasciamo questi discorsi. Io chiamavo per dirle che questo fatto che lei diceva ieri in Calabria è un'usanza antichissima. Allora ricapitoliamo, pare che ci sia una coppia, Parenzo, ti ricordo l'episodio di ieri, pare che ci sia una coppia in cui lui è stato praticamente l'uomo, è stato denunciato per violenza sessuale perché si è rifiutato di sottostare ad una legge che vuole che una ragazza marocchina debba arrivare, diciamo, vergine al matrimonio, ma vergine solo davanti e non dietro. Lei concedeva solo l'ano e non, diciamo, vabbè, la figa. Questa è la sostanza. Vabbè, e questa qui cosa vuole Clotilde? Cosa aggiunge al dibattito? Al dibattito, cosa aggiunge sta qua adesso? Cosa allora, Clotilde sta dicendo, mi sembra di capire, di aver sentito. È una isterica. Già una, no, ma a me fa girare i matti. Già una che chiama perché vuole inserirsi in un dibattito folle. Perché è folle? No, importante non il dibattito. È folle. Quello che io volevo dirle non è un'usanza musulmana. E che usanza? Ma che cosa? Lo facevano anche in Italia. Cosa facevano, signora? Si esprima chiaramente. Questo fatto qui. Cioè? Quale? Vabbè, no, ma beh, ma ripetimelo allora, Clotilde, ti do subito del tu perché mi sei simpatica, perché c'hai i coglioni quadrati, perché hai attaccato Parenzo, perché sei lì sul pezzo, però no, dimmi. Ma io non ho, è Parenzo che ha attaccato a me, no, non ma ho capito. Ma Clotilde, a me mi sembri una quadrata, mi sembri una tosta. No, ma mi sembra quello che appena chiama uno è cretino, quello non brava, capisco. Brava, vai all'attacco, non avere paura. Non ho capito. Non avere paura. Non ho paura di Parenzo, allora, assolutamente. Clotilde, allora io dico... Stavo dicendo che questa sì. Che mettiamo pure che sia marocchina con usanza, sì. Era un'usanza calabrese. Cioè, mi stai dicendo che in Calabria le donne si facevano prima di sposarsi, si facevano inchiappettere, come direbbe Lino Banfi, così Parenzo forse è meno colpito. Termine, ragazzi, quello è rapporto anale, è rapporto anale, non è che può essere un'altra cosa. Magari la signora così, ecco, usiamo questo. E allora, signora, dimmelo tu. Cioè in Calabria, ma che ne sai che in Calabria facevano così, scusami? Perché io ci ho vissuto, ci ho fatto pure una figlia in Calabria. Non ho capito, ecco perché. Perché lo so. Ah, lo sai per esperienza, per esperienza personale? No, assolutamente, anzi, proprio per quello mi fu raccontato. Cioè, tu hai fatto prima, tu hai fatto prima avanti e poi dietro, insomma, questo è regolare. No, regolare. No. In che caro senso, scusami? Cruciani. In che senso? Mi dispiace, assolutamente. Cosa assolutamente? Che per me esiste solo una cosa, appunto, basta, non voglio entrare in questi particolari. Ah, il resto no, io. Il resto è tabù. No, il resto è tabù. L'amor del cielo, ma per favore. Ma non c'è niente di strano però, signora, mi sembra la De Mari, la professoressa De Mari. Mi sembra la professoressa, signora Dinolfi, professoressa De Mari, signora, non è che c'è niente di strano, il rapporto anale è una cosa normale, il rapporto anale, mi scusi. Ma chi lo vuol fare, per carità, io non ho controllo. Io non capisco perché sta signora si inerpica ad affrontare questi temi, io ma questo sono tante non mi manda cose, Parenzo, che lei non capisce. No, ma figuriamoci. Grazie. Ma sono veramente Clotilde, tante. Comunque, non lo so se al sud, non lo so se al sud facevano così, francamente no, non lo so. Questo glielo posso garantire. Mi pare una leggenda. No, questo me lo raccontò il padre di mia figlia, ai tempi, che ha avuto delle relazioni, eccetera, eccetera, e che si usava quel passaggio. Va bene, signora. Il passaggio dall'ano. A parte questo. Anal passage. Vabbè, adesso questo chi se ne frega. Lasciamo perdere un attimo. Ma lasciamo perdere, sei tu che ne hai parlato, Clotilde, però scusami. Ma adesso volevo dire una cosa a Parenzo. Che volevi dire a Parenzo? Che appena sente parlare dei potenti, tipo Farinetti e quant'altro, sia mai Renzi. Farinetti, ma chi è diventato Parenzo? Vabbè, signora, vabbè. Non si vuole rendere nemico le persone. Signora Clotilde, ma veramente posso dirle una cosa? Lei mi ha proprio stufato, ma dall'inizio mi ha stufato per il tono, mi ha stufato per quello che ha detto, ma proprio vedete? Stufato. Allora, tecnicamente stufato. Rivalutando Cruciani. Ma va bene, Clotilde, benissimo. Ti abbraccio, ti do. Perlomeno. Però Clotilde, scusa, quanti anni hai? Quanti anni hai, Clotilde? 67. Mi sembra che sia giunta l'ora, eh? È giunta l'ora. Amica mia, di che cosa? È giunta l'ora. E non dico più nulla, è arrivata l'ora, amica mia. No, è arrivata l'ora di provare quella roba lì. Proviamola. No, la provi. La provi, signora, la provi. Per l'amor di Dio. La provi, la provi. La provi, la provi, signora. La provi. No, Fanzaga dice il contrario. No, amica mia. Poi, lei guardi che l'ha messo anche in palio, L'ho messo? Ah, beh, è vero, sì. È vero, l'ho messo in palio. L'ho messo in palio. Tutto sa la nonna. Fermi tutti, Clotilde. Provi, bene, provi. Se è arrivata l'ora, altrimenti è troppo tardi. No. Lo dia via. Mamma mia. Ciao, Cruciani. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No. Adesso capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, tu non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là, da Bergamo, sì! Da Bergamo, Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, le nate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Nella roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Non ce l'hai. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Arenzo, un giorno per i coglioni questo rom. Certo Mauri, quando ascolti sta radio ti avevo rincoglionito, eh. Siamo al top. Poi la maggioranza silenziosa, ma cosa vuoi maggioranza? Ma cosa vuoi maggioranza? La maggioranza silenziosa è la vera. Siamo noi, sono io, che ci sa la maschera dei parenziani, quella di essere accettati nella società e essere poi andare a giro la maschera di Parenzo, ma poi dentro siamo tutti cruciani. Pare, certo che fai cagà proprio, fai vedere l'altro la ginocchia, quanto cazzo sei brutto all'aria che tiro. Un abbraccio caro Palenzo, la minoranza silenziosa, anzi no, la maggioranza silenziosa dei miei coglioni. Un abbraccio di nuovo. Questo è un audio. Se l'hai capito, me lo sai, perché questo segna esattamente qual è la confusione mentale di molti che telefonano, non degli ascoltatori, di quelli che telefonano. Questo però è il numero uno. Questo è il più sbandato di tutti, perché dalla parte c'è un abbraccio, quindi guarda, dice, poi dice che sono brutto, per carità, va benissimo, non è un problema, non voglio piacere sicuramente a lui, anzi il fatto di non piacere a lui mi inorgoglisce, cioè mi fa capire che dico delle cose giuste, di non piacere a quelli che telefonano, mentre quelli che chiamano, che sono la stragrande maggioranza, cioè 2,5 milioni di persone. Mentre tutto il resto è feccia, come avrebbe detto Sarkozy quando scoppiò la rivolta delle periferie. Sarkozy definì quella roba lì feccia. Ecco, per me è feccia chi chiama feccia. Un abbraccio di nuovo. Come dice, lo dice anche effettivamente con quasi gentilezza alla fine. Prima mi massacra, poi dice un abbraccio di nuovo. La gente è matta. Io non capisco perché ti incazzi con la pizzeria ai veneziani e del signor Nardini, che prima abbiamo sentito, il quale espone un cartello 100% persona all'italiana. Ma qual è il problema? Ma qual è il problema? È una vergogna. Ma non riesco a capire. Durante le leggi razziali nel 1938 c'erano i cartelli, ti dico io, veramente 100% ariani. C'erano i cartelli in cui si diceva 100%, oppure si segnavano i negozi degli ebrei. Mio nonno, che era un importante avvocato padovano, nel 38 fu costretto a non fare più l'avvocato. Stai davvero dicendo che questo Nardino è un razzista, dai. No, è un pirla, è diverso. Ma no, adesso fra poco ti giuro, oggi ti ci faccio parlare. Ma non mi dire non in faccia, parlo con Nardino. Sei un pirla. Sei un pirla. Devi dire in faccia, sei un pirla. Secondo te? Ma gli diciamo no, ma di glielo più, devi volendo dire, sei un pirla. Gli diciamo, ma sei un pirla, ma sicuramente, almeno quelli. Comunque, voglio dire, il razzismo è un'altra cosa, purtroppo. No, questo qui è semplicemente un pirlotto. Un pirlo. Comunque, ragazzi, oggi mi sono trovato a dare ragione, oltre che a Don Livio Fanzaga, figurati, anche alla signora Daniela Martani, la quale ha scritto: sapete che in questi giorni in Cina si inaugura la famosa festa di Yulin, quella dove mangiano i cani, la fiera, brutto, la fiera brutto, di Yulin. Brutto. Non me ne frega niente, se i cinesi vogliono mangiare i cani li mangiassero, sì, non me ne importa niente. Ma insomma, sì. Non è una barbarie, sono cani d'allevamento, chi se ne frega. Non è affatto una barbarie. Però vabbè, ti fa impressione perché vogliono sei un perbenista. E no, sei ma uno che perbenista? Allora, figure. La Martani scrive: la fastidiosissima ipocrisia di quelli che si indignano e versano lacrime per i poveri cani di Yulin e poi vanno alle sagre della porchetta. E ha ragione. Dal suo punto di vista, mangiare la carne di cane o mangiare la carne di maiale è la stessa cosa. Io me mangio la carne di maiale, la carne di cane non me la sono mangiata una volta e non me la mangio. Però io trovo che sia la stessa identica cosa. I cinesi possono mangiare il cane come noi qui mangiamo il maiale, uguale, identico, identico. Su questo ha ragione, su questo ha ragione. Chi si indigna e poi mangia la carne di maiale o la carne presa dalle mucche è un coglione. We'll be right back. non ti devi indignare. Se mangi la carne qui in Occidente, non ti puoi indignare per la carne di cane che si mangia ma in Cina. Ma è un po' diverso. A me fa impressione, ad esempio, l'idea vabbè, che questi mangiano ma il cane. Posso dirtelo. Ma non sono cani di allevamento, non è vabbè, che ti rubano il cane. Ernesto da Padova, dai, sentiamo il popolo da Padova che dice vai, Ernesto, dimmi, vai. Sì, ciao, ciao a tutti. Niente, ho sentito prima al volo, mi scusi anche il nome del tuo collega. Sì, Parenzo, sì. Parenzo, sì. Allora? Che diceva che lui presiederà i seggi di tutto sarà a Padova. Sì, sì, sarà non presiede nessun seggio, vuole fare nessun seggio. Ma vengo... che cazzo ti vieni a fare? Rimani là dove sei. No, pensa, no, vengo a Padova a verificare che tutto sia tranquillo. Il normale svolgimento di questo importante appuntamento democratico. Invece di fare una cosa del genere che non serve assolutamente a nessuno, allora un giro, quel tempo là, utilizzalo per andare a guardare cosa combinano i rom in giro. Non ho visto Roma, non ho visto tanti Roma a Padova. Ah, non ci sono i rom a Padova. Allora, io ho visto Bitonci a Padova. No, allora Roma, cerca quelli ora di Roma. Controlla quelli di Roma. Ma c'è anche la libertà di movimento, Ernesto. Io venerdì sarò a Padova. Venerdì la zanzara sarà in diretta da Padova. Ma non è vero, io non ci sono. Poi lui la libertà. Poi la libertà la sabato come e domenica passeggerò per il centro per vedere che tutto sia tranquillo. Passeggerò allora, per il centro. La libertà di movimento di cui parlava Cruciani, sì, per lui non esiste. Non esiste perché lui ritiene che possano muoversi come cazzo vogliono i rom. Chi ha detto sta roba? E chi ha detto mai? Cruciani, ma magari si muovessero, magari si muovessero i rom. Il punto è che stavano, esatto, purtroppo bravo, sono no, stanziali, sono stanziali negli accampamenti, nei villaggi, nei centri, nei campi. Quando? Questo è il punto. Auro, provincia di Modena. Ciao Auro, vai. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Io sono imprenditore campigiano, esporto in tutto il mondo ed esporto made in Italy. Sì, allora esportando made in Italy, la mia roba la faccio fare solo da dipendenti italiani, ma non è questione di razzismo. Di fianco a me c'è un fracco di aziende tessili, perché campi pieno di tessili, che vendono il made in Italy e poi fanno fare tutto ai cinesi, no? Ci sono artigiani. Cioè tu assumi solo personale italiano? Assumo solo personale italiano perché devo garantire l'italianità. Che ne sai, che, sai che non c'è un cinese che è in grado di fare quello che fa un italiano? Che ne sai che non c'è un ghanese? Che ne sai che non c'è un romeno? Scusa. Ma sai, made in Italy è una questione anche di mentalità, di formazione. Sì, ho capito, però amico, cosa vuol dire? Ma il made in Italy spesso viene fatto all'estero, poi torna in Italia. Ma lui sta dicendo, siccome lo fanno in Italia, è quello fatto all'estero. È made in Italy fatto all'estero. Vabbè, tu allora approvi quel pizzaiolo di Venezia che ha esposto quel cartello? Ci sono egiziani che sanno cucinare una ottima pizza seguendo le regole e la tradizione italiana. Quindi non diciamo fesserie proprio. Se tu vai a pizzeria italiana in Germania, dove la pizza te lo fa un tunisino, la pizza tunisina non è come quella italiana. Ma quello è un altro discorso. No. Che cosa vuol dire? Scusi, io dico che in Italia è pieno di pizzaioli egiziani, che peraltro sono tra i più bravi, cresciuti alla scuola partenopea. Se uno vuole assumere solo italiani, è un pirla. Allora è un pirla pure Auro. Pure Auro è un pirla. Chi è Auro? Questo qua. Un imprenditore che deve lavorare a 30 persone. Vabbè, Auro. Tutti italiani. Va bene, ma adesso è la selezione. Io degli amici senegalesi. Non dica niente contro gli stranieri. Io amici senegalesi. Ma uno deve assumere. Si dice sempre così. Ho un amico senegalese. Ma uno assumerà chi ha le competenze. Ma scusa, uno assumerà chi vuole, nel senso chi ha le competenze, non in base. Se si presenta uno capace di lavorare nel Senegal, lo assumi o no? Ma difficilmente uno del Senegal ha la qualifica che ha un italiano. Ma che cazzo fai? Scusa, non ho capito. Ma cosa fai di così speciale che uno non riesce a farlo se non è italiano? Scusami, Auro, per capire. Dei bellissimi elettrodomestici di design. Ma gli elettrodomestici tutti lo possono fare, che vuol dire? Cioè, tutti possono. Dipende dal contenuto. Vabbè, no, per sapere, tu puoi assumere chi vuoi, anzi, uno potrebbe anche dire: assumo solo italiani perché mi voglio solo italiani. Alessandro, provincia di Milano, Alessandro. Per una grande sciocchezza. Vai, Alessandro. Oh. Alessandro, Federico Torino, dai, Federico. Allora, ciao, senti, sono uno studente di giurisprudenza di Torino, il cui campus è vicino a quella piazzetta dove ieri sono state le cariche. Sì. No, niente, per chi non fosse di Torino, devo dire che lì c'è la sede di un noto centro sociale torinese, cioè la Ascatasuna. Sì, come no, certo, i signori di Ascatasuna, gli amici di Ascatasuna. Beh, è occupato quel centro di Ascatasuna, famoso centro, non mi ricordo più, è occupato? Sì, è occupato, come sono occupati tutta una serie di locali. Benissimo, quel centro sociale deve essere lasciato, il proprietario non ha ancora fatto causa, il comune non ha ancora cacciato. Questi qua vanno cacciati, i centri occupati, non me ne frega niente, i centri occupati vanno lasciati liberi, vanno, i proprietari d'accordo. Devono agire per via legale, la polizia deve intervenire per sgomberare tutto. Hanno rotto i coglioni questi qua, va sgomberato tutto. Tant'è che i signori, quando hanno visto la polizia sotto, nonostante l'ordinanza che giustamente dopo 1500 feriti in Piazza San Carlo ha vietato il vetro, sono arrivati con delle bellissime bottiglie di vetro, e non solo. Ma certo, ma lo fanno apposta. Se tu prendi un provvedimento per l'ordine pubblico in cui vieti la vendita delle bottiglie, delle bibite, dell'alcol, eccetera, lo fanno apposta, andare là per provocare la polizia e poi scatenare il panico. Ma è evidente, è talmente chiaro che chi non lo capisce è un cretino. La presenza della polizia lì è essenziale, fondamentale, davanti al centro sociale ogni giorno ci dovrebbero stare i poliziotti, ogni santissimo giorno, lì davanti, di fronte, dentro ogni giorno, dentro i cellerini, dentro il centro sociale, ogni giorno li voglio, dentro il centro sociale, a provocare, a stare lì, a farsi attaccare, attaccami, sono la polizia, una cosa incredibile, io mi fa impazzire questa cosa. Volevo fare, nel senso che ora è vero che una parte della scatasuna sono notav e quindi vabbè, lascia perdere, che c'entra il notav in questo caso, non c'entra nulla, ma non c'entra niente, dai Federico, scusa, caso. Tu sei colpito dal fatto che non puoi acquistare una bibita e portarla fuori dopo le 20? No, sinceramente no, perché a me di portarmela in un bicchiere di plastica, di portarmela dentro una roba di vetro non me ne frega niente, anzi sono più contento, so che sono più sicuro, so che se c'è una situazione di carica, se ci cado sopra non mi faccio male, quindi sono più contento sinceramente di portarmela nel mio bicchiere di plastica, e quindi sinceramente a me che questi qua vengano con le bottiglie di vetro, non solo, poi pare che abbiano pure che sono schiaffo una poliziotta, quindi insomma dei cuor di leone sono questi signori qui. Va bene Federico, ciao, ti saluto, ciao. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. La Zanzara. Cruciani, ma che parli a fare di corteggiamento che appena ti si avvicina una donna scappa via sentendo la tua puzza? Ma corteggiamento, chi ha parlato di corteggiamento? Cioè, non... Ho parlato di un'altra cosa che non è il corteggiamento, è la seduzione. Boh. Poi amico mio, io non ho mai corteggiato nessuno. Ho avuto la fortuna di poter evitare il corteggiamento. Non ho mai avuto bisogno di corteggiare nessuno, devo dirti la verità. Non ci provo mai con nessuno. Arrivavano a pioggia, diciamo. Beh, a pioggia, insomma. No, ma non è che arrivavano a pioggia. Clamoroso, Cruciani. Le donne arrivano a pioggia. No, non l'ho detto, l'hai guarda. Detto tu. Guarda. Poi uno mette guarda e trova niente. La tua foto. E non c'è nulla, sì. E uno vede la tua foto. Allora, ragazzi, Acri Italia. Acri Italia, ve lo ricordate il paese di Cofone? Ve lo ricordate il famoso Cettola Qualunque? Signor Cofone, che cosa paese. Diceva in piazza in quel comizio? Quello che era della democrazia cristiana, signor Cofone. Detto il Cettola Qualunque di Acri. La strada in pessima condizione, la chiusura del CUP, la scarsa manutenzione dei due depuratori che abbiamo a Sasicella, che vengono riversate tutto su segno vedo tolto. Ma c'è un applauso, noi non siamo a casa qui. Sempre al comizio della candidata di centro di questo Cofone, ripeto, Acri Italia, la gente non sa parlare italiano. C'è un altro che si è, come dire, esibito, un tale che si chiama Pasquale Gencarelli. Senti, chi è questo qua? C'è da difendere la candidata che va al ballottaggio, la candidata, diciamo, dell'area di centro. Ma qual è? Ma che cazzo ne so come si chiama. Senti questo che si è esibito sul palco, sempre dalla parte di Cofone. Buonasera a tutti, di essere numerosi qua in questa piazza per poter almeno sostenere questa donna candidata a sindaco per la prima volta, chissà riuscisse a fare questo lavoro perché è fatto troppo bene. Acri, provincia di Cosenza, sempre Gencarelli sul palco. Se riusciamo a fare questo lavoro, secondo me abbiamo qualche giorno diverso di quelle che abbiamo avute, perché non è un anno che ci sono questa gente. Sono dal 45 che sono dentro a questo comune, che poco volte ci sono andate altre gente. Solo loro stanno rimanendo a questo comune di Arca. Non ci sono altre gente. Ma ce n'è uno che parla italiano lì ad Acri, provincia di Cosenza? C'è uno che parla italiano, vi prego. Poi dicono degli immigrati che devono fare lezioni di italiano. Non mi fare dire niente, lo dovrebbe dire Parenzo, una cosa di questo tipo. Dovrebbe dire Parenzo. Un po' di buon senso. Però, anche ragazzi, tu io chiamerei il Cofone perché voglio capire come va il ballottaggio. E se lui può influire. E come ci possiamo parlare? Vediamo. Se chiamiamo Cofone, dai. Pronto? Angelo? Sì? Eccoci, sono Cruciani, Radio 24, come stai? Tutto bene. Beh, c'è stato un altro show, mi sembra, sul palco, o sbaglio? C'è stato un mio paesano che ha detto due parole così. Senti, ma come te la senti questo? Come te lo senti questo ballottaggio, Angelo? Beh, sicuramente lo sento che ce la facciamo. Ce la potete fare, che dici? Sì, perché adesso stiamo partendo 0-0. Come, scusa? State partendo 0-0? 0-0, è una partita che inizia adesso. Sì, avete preso poco al primo turno, amico mio, avete preso poco. Però, senti, ma ti è dato fastidio in tutto questo tempo essere definito il cetto la qualunque di Acri? Certo, perché io non mi posso paragonare con il cetto la qualunque. In che senso non ti possono paragonare? Perché non parli di Pilu? Perché non hai mai parlato di Pilu, diciamo, no? Ma perché non è il mio campo di parlare di queste cose qua. Cioè, di che cosa dici? Io sono una persona così. Così come? Naturale. A me queste cose, magari per fare pubblicità, pile o non pile o cose, a me queste cose non mi piacciono, non sono di quel genere là. Vabbè, però ti ha fatto un po' di pubblicità, diciamo, Angeli, dai, su, e ti ha fatto un po' di pubblicità sta storia, altrimenti magari una mano te l'ha data pure il web, tutta questa pubblicità che c'è stata, o no? Sì, va bene, però diciamo a me questo paragone che hanno fatto non mi piace. Ma perché? Per la storia del Pilu, dici te? Sì, perché magari io non ho mai parlato di queste cose, non mi interessa parlare di queste cose qua. Vabbè, ma mica è male parlare di Pilu ogni tanto, però. No, non è nel mio programma. Nel suo programma? Nel programma non può essere. Certo, nel programma non c'è. Il programma mio è diverso, non è così. Sì. Non c'è Pilu, dici te. La cosa che voglio chiederti, scusami Angelo, tu che sei il commissario della DC, che sei? Sì. Ecco, ma sta DC ormai non esiste più. Come non esiste più? Ma non esiste più la DC, amico mio. Guarda che la Democrazia Cristiana esiste. Come non è un incubo. Ma dove? Dove esiste? Il segretario nazionale è Angelo Sandri di Udine. Sì, ma d'accordo, però non esiste più, non prendete, non ci sono voti, non c'è, è finita. Ho capito, per questo io sto preparando le tessere qua ad Acri per partire di nuovo con la Democrazia Cristiana, perché noi dobbiamo fare le tessere. Le tessere. Ma siccome il mio paese è un paese democristiano, allora stiamo partendo di nuovo con questa... Sì, ma serve la DC ancora? Per me sì, perché io sono un vecchio democristiano, mio papà era vecchio democristiano e per me io ce l'ho nel cuore questo partito qua. Ho capito, ma serve ancora la DC oggi? Ma figurati. Perché ha detto figurati. Quello dice figurati, dice che non serve. Posso dire figurati, amico mio, dico figurati, secondo me non serve la DC, però per carità rimaniamo come al solito buoni amici, cioè non... No, per me mi serve. Poi magari uno come la vuole pensare la pensa. Sì, d'accordo. Ma per carità di Dio, ma DC, lo scudo basta. Crociato, lo ma scudo dai, crociato, ma la prima repubblica dite? È tutto finito, no? Ma certo. O no? Ma quante persone stiamo parlando qua? No, siamo in tre. Siamo in tre, allora questa è un'intervista. No, ma che cosa c'entra il numero? Cosa c'entra il numero di persone? Sono parenti. No, calma, ma io sono. Le interviste non si fanno così per no, telefono. Ma io sono Parenzo, ma non c'entra lì. Sono Parenzo, io sono Parenzo. Questo volevo dire. Che non sentivo la frase sto facendo le tessere della Democrazia Cristiana. Acri, Cosenza, amici miei, è tutto finito, irrecuperabile. Ma cosa vogliamo recuperare? Una parte del paese non c'è, non esiste. Miserabili. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. Parenzo. E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. La zanzara. Cruciani, vai a fanculo, vara. Sei un gran testa di cazzo, vara. Sei una razzista di merda, vara. Sei una razzista, vara. Sei una razzista di merda, sei. Bastardo che sei, Cruciani. Ma vado a far futuro, va. Vai, Paco. Dio ti benedica e ti protegga. Vai, Paco. La maggioranza silenziosa con te. Dimmi dove devo venire a piatte, strappo le budella e me le faccio un padella. A te e quell'altro rotto un culo di Parenzio. Deficiente, negro di merda, vattene al paese tuo, bastardo. Adesso questo signore, Parenzo, sì, questo sì, signore... Sì. E viene segnalato... Questo signore, aspetta, questo signore... Lo chiamiamo... Strappole budella, negro de merda, bellissimo. L'hai segnalato, spero, no? No, io non segnalo mai nessuno. Voglio che le persone si confrontino. Per esempio, c'è la notizia tragica, drammatica per il paese. Questa è una minaccia, no? C'è la notizia drammatica, tragica per il paese, che Alessandro Gassman è andato via da Twitter. La risposta a questa roba è sti cazzi. Beh, però possiamo prendere in considerazione che ormai Lo hanno insultato, lo hanno attaccato, ma Twitter, questi social network sono un po' una fogna. Ma perché no? Prima che cos'erano? Non ho capito. Prima che cos'erano? Ormai è diventato sfondatoio, è sempre di stato così. E allora non ci vuoi stare, vattene, non perché ti hanno insultato, hai parlato, non è perché hai difeso lo Ius Soli, lo hai difeso in un certo modo. Lo doveva bloccare i suoi detrattori, bloccare. Blocco, ad esempio, ma non c'è blocco. Bisogno, basta non blocco. Ma scusa, non ma perché devi leggere? Non voglio, perché voglio devi leggere gli insulti. Dopo una certa soglia l'insulto io lo cancello e non mi va. Avrò il diritto di farlo o no? Ma è inutile, tanto si ripropongono sotto un altro io nome. Il maleducato lo blocco. Ma io cosa vuol dire? Ma lo neutralizzo, il web lo blocco. È maleducato. È maleducato, ma per detto? Definizione, ma chi, che cosa ti aspetti? Così, è sangue, scusami. E merda, come la zanzara, ma come la vita. Deve essere così? Come la vita, ma è ma così. No, ma non è tutto così, c'è anche la buona educazione oltre che la mala educazione. Ma cosa c'entra? Ma su internet è chiaro che vedono Alessandro Gassman e ci disputano in faccia. Ma è normale. Ma perché? Ma è normale nel mondo tuo, è normale. Ma che ma vuol se dire? Uno vuole querelare, poi querelasse, andasse in tribunale, ma cosa c'entra? Me ne vado da Twitter. Vabbè, se n'è andato, te che ti cambia? E a me la trovo una scelta anche giusta, quella di essere offline. Ho difeso lo Ius Soli. Bravo. Ma non hai solo difeso lo Ius Soli. Hai detto che senza gli immigrati scompaiono le fragole, scompare probabile, il vino, scompare certo. Non so che cosa. Puttanata, probabile, perché in agricoltura no, puttanata niente. Vai a vedere cosa è successo in Puglia. Domenico da Milano. Vai a vedere il fenomeno del caporalato, che cos'è, che dovremmo raccontare per bene. Che ma cos'è che il fenomeno c'entra? Del caporalato? E che c'entra, dice lui. Guarda, Domenico, le notizie di oggi. Altro che. Domenico, dimmi. Ma prima due parole su quel derelitto che c'hai lì di fianco. Guarda, che prima... Buonasera, ce l'ha con me, benvenuto, grazie per aver chiamato. Sì, come poi sta? Ti faccio una domandina privata, Parenzo. No, che... privata, che c'è? Sì, ma privata non c'è, di privato non avremo mai nulla io e lei, se non il fatto che stiamo dialogando in questo momento. Una cosa per fare capire a tutti che tipo è. Sì, cioè, no, ma di la dica subito, forza, invece di fare la ricattopoli. Dica la minchiata subito, forza, anziché in privato, lo dica subito. Dica quello che doveva dire invece di... Volevo dire al signor Cruciani, sì. Che infatti è una persona intelligente, ha capito, che è liberissimo di poterlo fare, e voglio portare la mia esperienza. Ho uno caro zio, povero Cristo, il quale aveva un'azienda metalmeccanica, e cosa gli è venuto in mente a questo povero zio? Di assumere degli stranieri, e così a un certo punto aveva una ventina di dipendenti, e allora? Per lo più italiani, 5-6, è andata male l'azienda. Questo era bravissimo, mancia tutti, mancia gli stranieri, mancia sì, gli italiani. Dunque? Gli unici che hanno fatto il decreto perché non pagava gli stipendi, chi sono stati? Ma gli stranieri, ovviamente. Cosa vuol dire questa ma storia? Ma i 5 stranieri. Cosa vuol dire? Stupida, questa stupida storia, cosa dimostra? Gli italiani. Perché questa stupida ti storia, ma, non ti, ma cosa non ti tradisco? Ma sei una questione di un diritto, certo, ma non è questione di italiani o stranieri. Se tu rivendichi un diritto e ne hai diritto, è giusto che tu denunzi chiunque, ma di che parli? Ma ma io dico solo che l'italiano non ha capito, no, quel povero anziano che lei non canna al passo coi tempi, solo ha preso delle sciocchezze. Lei ha fatto un esempio sciocco. Invece gli altri sono andato dal sindacatino di sinistra. Lei ha fatto, ma quale sindacatino? Ma non c'è il complotto di far fallire l'azienda? Ma cosa dice? A tantissime famiglie, no. Sì, è andato così, perché poi quello lì, questi poveri derelitti hanno fatto il decreto, quello ma non lei è un derelitto, altro che, ma lei è un derelitto. Ha dovuto fallire, ma... e così l'azienda ha chiuso, vabbè, tutto, però buona pace dei sindacati. Vabbè, poi che dovevi dire? Che volevo chiedere, signor Parenzo, se il figlio che ha avuto, se l'ha concepito, cioè se l'ha fatto aiutare, se l'ha fatto... Vabbè, una cretinata, dai, Domenico, una cretinata. Ne ho avuti tre, stupido, tre, tre figli. Tre figli, da vicino, stupido. E come ha fatto, Parenzo? Tre figli, come fa? Come ha fatto lei a telefonare? Cioè, come ha fatto neurologicamente lei a fare l'800240024? Io le dico come ho fatto a fare i figli, le faccio un disegnino e se vuole le faccio proprio materialmente vedere come si fa. No, ma lei come, ma lei, ma che cinese, se mai è filippino, stupido. Cina è una cosa, filippino. Ma come ha fatto lei col suo livello neuronale a telefonare? Mi spiega come ha fatto a telefonare? Come ha fatto a comporre l'800? Fermi tutti. Ciao Domenico. Chi è quel coglione che ha fatto la patentea a 50 anni? Ciao qua. Allora, il collegamento da Budapest con noi, Rocco Siffredi, eccoci. Come qui. Stai, amico? Meno male, ciao, ciao Ben, amico, come, mio, va? Ciao, come, ciao. Va? Come, come va? Come va? Come va? Siamo presi, molto presi, più che io e Malena che è presa. Vabbè, tutto quello sei, amico mio, abbiamo come dire, visto nei giorni scorsi, ormai è praticamente ospite di talk show televisivi, hai creato un mostro, creato un mostro. Ma infatti glielo ho detto, devi stare attenta, devi stare molto attenta, perché l'Italia non è un paese che è molto portata ad accettare un lavoro come il nostro, special modo se viene da una donna. Ma sì, ma scusa, ma ti pare normale? Io volevo che... dirgli questo invece, scusa, perché sono ciao Rocco. Ciao, sono ciao, stato grazie. Questo weekend a Pescara, dove sai si trattiene la mia. No, voglio dirgli, perché sono stato a mangiare nel paese dove è nato Rocco, in un ristorante davanti alla... No, in Abruzzo. A Ortona. Dove c'è Ortona. Un ristorante buonissimo che dà sul castello ed ero a cena con due amici. Dice, ma chi se ne frega? No, perché questa coppia di amici, la moglie, tal, non dirò il cognome, tal Giulia, moglie di un grande autore, è amicissima del signor Rocco e mi ha raccontato che viene costantemente davanti al marito abbracciata e gli viene fatta sentire la presenza. Lo diceva con grande anche orgoglio e simpatia. Ma la conosci sta Giulia? Giulia, la conosci sta Giulia? Ma è di Ortona, No, sì, è di vicino a Pescara. Lei fa, diciamo, dei balli, insomma, è un'attrice, insomma, rossa, vabbè, capelli adesso, rossi. Adesso non se lo ricorda, conosce tante Giulia. Comunque sono andato a mangiare lì e lui è un eroe, la persona della città, del paesino. No, ma io non pensavo, dicevo, Parenzo la Zanzara, ma sa che uno dei vostri ospiti, dico chi, De Mita, De Pomicino, no, Rocco Siffredi abitava qui e mi portano a vedere la casa dove è nato Siffredi. Io sono molto dagli abruzzesi, perché ho veramente, loro mi conoscono, ho sempre dato e messo la faccia e ho dato tutto, ecco, non solo la faccia passione. non solo la faccia. Senti Rocco, però io ti ho chiamato per un'altra cosa, non parlare dell'Abruzzo, sì, e Parenzo mi racconta queste stronzate. Allora, no, ma tu sei accusato da una giornalista francese, sì, peraltro dopo tanti anni, di molestie sessuali, cioè dice mi ha presa di violenza, sì, di averla violentata. Vuoi rispondere qui ufficialmente a questi francesi, ma a questa signora qua? Ma sì, ma allora ti faccio veramente in tre secondi, perché so che io non ho visto le immagini, bravo, se hai visto le immagini capisci tutto. 11 anni ci ha messo per ricordarsi che durante una trasmissione del tipo Chiambretti Night, in seconda serata, in cui il suo braccio, cioè il presentatore, Coe, non è altro che una presenza continua negli Oscar del porno di Cannes, e invitava sempre i pornostar, un po' come fa Chiambretti in Italia, come facciamo noi, molto aperta, come facciamo noi un po', fan e divertente. Come facciamo solo noi un po'. Coe mi chiese, Rocco, hai voglia di fargli vedere come si fanno le posizioni sul set? La signora, sua amica, che mi ha visto tre volte la valletta lì, tre volte si è fatta la foto, tre volte molto fan. Quella volta... Fermo, che succede qua? Non si sente più niente, ragazzi. Pronto? Adesso riprendiamo. È Budapest. Oh. È l'Ungheria, Orban. Rocco, Lorenzo Milano, vai. Ciao Parenzo. Allora, io volevo parlare, volevo più che altro convincere Parenzo che anche i membri della maggioranza silenziosa possono, diciamo, un po' divertirsi tra le lenzuola. Io infatti questo sono circa due anni che con la mia ragazza coinvolgiamo altre persone nella nostra vita sessuale ed è una cosa bellissima che più persone dovrebbero fare. Ragazzi, però adesso, questa sera, non è che tutte le telefonate possono essere con questa linea qua. Allora, Lorenzo, dove sei esattamente? Pensavo con questo tema. No, ma sono tutte... Invece lui ne fa un problema di linea. Ma a me non me ne frega niente, a me uno può raccontare quello che vuole. Sta dicendo semplicemente che ha dei rapporti a tre con la sua ragazza, giusto? Ho capito, però... Non... Ma chi coinvolgi, maschio o femmine? Non è della maggioranza silenziosa. Sia maschi che femmine, però ti dico la verità. Io dopo aver provato... Ragazzi, mi mettete bene in collegamento questo Lorenzo, vi prego, vi scongiuro. Lorenzo, spostati, mettiti bene se vuoi parlare con noi, altrimenti mi incazzo e spacco tutto. Lorenzo, dimmi. Allora, stavo dicendo che abbiamo, noi facciamo sia con uomini che con donne. Vabbè, sì, ma perché non dovrebbe essere normale? Ma spiegami, non è della perché? Maggioranza silenziosa. Ma no, non è della maggioranza silenziosa, magari la pensa come te sulla politica, no, su tante cose. Non... E invece sul sesso, sugli immigrati, magari la pensa come te, sullo Ius Soli la pensa come te. E invece poi fa sesso a tre con la sua ragazza, con uomini e con donne. Con la sua ragazza si reca in appartamenti. Ma no, assolutamente. No, spiegalo al grande popolo, spiegalo agli industriali, agli imprenditori. Ma perché deve spiegarlo a chiunque? Ti spiego, perché noi non frequentiamo posti tipo club privé o robe del genere, perché non ci piace. Meno male. Preferiamo praticamente, una volta che se conosciamo delle persone che ci piacciono, ci attirano. Ma noi chi intanto? Lei e la sua compagna e sua moglie? Insieme. Ma come certo, insieme? E cosa fate poi? Si conosce una persona, si ha. No, ti sposti, Lorenzo, ti metti in un posto dove prende, ti prego. Mettiti in un posto dove prende il telefono, perché allora non spostarti troppo, altrimenti non sentiamo un cazzo, è un racconto interessantissimo. Non può essere rovinato da questa roba qui, dai. Interessante. Mi senti adesso? Mi senti? Sì, ti sento, Lorenzo. Allora, stavo dicendo, una volta che hai conosciuto una persona, che ha degli scambi di vedute, si capisce che c'è un certo feeling, e allora a quel punto poi eventualmente si prova a vedere se c'è dell'interesse da parte di quest'altra persona a fare... diciamo un rapporto a tre, no? Mi pare una grande porcheria, guardi, mi pare una porcheria e una perversione, peraltro. Beh, mi pare che lei, Parenzo, non si accontenta del fatto della esclusività con la sua compagna, e quindi mi pare anche, peraltro, una cosa fuori dalla maggioranza silenziosa. Se entrambi va bene, perché dovremmo accontentarci dell'esclusività? Ma per carità, fate quello che volete. Ma perché non potrebbe far parte della maggioranza silenziosa? Il fatto stesso che però lei lo abbia raccontato la fa uscire da questa. Scusa, preferite maschi o femmine in questi rapporti a tre? Allora, entrambi maschi in realtà. Entrambi maschi, perché la situazione ha una carica erotica maggiore. Cioè, con i maschi è meglio. E tu che fai con i maschi? Partecipi oppure... No, io non faccio niente, no, perché... Cioè, vedi la tua donna che viene trombata da altri? No, facciamo insieme. Come fate insieme? Hai detto che non fai niente, scusami. No. Faccio niente con l'altro uomo, non mi faccio incappettare perché non sono omosessuale. È una porcheria. Ma perché è una porcheria? È una cosa naturale, partecipa. Ve lo dico, è una porcheria. È una porcheria guardare, fare, partecipare. Mi pare una porcheria. Poi fate quello che volete. Ma perché non prova prima o poi, Parenzo? Magari non c'è nella maggioranza silenziosa. Ma perso un sacco di tempo. Ma quale tempo perso, dai? Ma si legga un libro, vada al teatro, al cinema. Vuoi convincere Parenzo? Sono la maggioranza silenziosa, Parenzo. I libri li leggo volentieri, è quello il punto. Solo che c'è quel lato lì un po' più oscuro, se vuole. Ma scura, è uno che legge libri, Lorenzo, uno acculturato come te, magari comunque va al teatro. Ma se una fa... No, ma non si racconta, è l'intimità. Lo vuoi espellere dalla maggioranza silenziosa. Ma certo, una delle regole base della maggioranza silenziosa è quella che questa. Ma la tua porcherie... ragazza c'è? La tua ragazza lì vicino? No, perché non è qui con me, Sarà, non si preoccupi, sarà a divertirsi con qualcun altro. Ma tanto no, a lei lo fanno insieme, lo fanno insieme. Tanto a lei, esatto. Che gliene frega in fondo. Ciao Lorenzo, Giuseppe, ciao. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, La Zanzara. Caro Giuseppe, caro David, alla faccia vostra. Ma sempre ascoltando La Zanzara, io sto sulla mia barca a mare. Sentite? Ciao falliti. La Zanzara. Yeah! Oh, tu ti rendi conto che non si sente nemmeno il traffico? Cioè, questi del traffico, pagati da noi, ma si mettessero però alle 20:15 in un posto dove si sente, perché non si sente un cazzo, non si sentiva un cazzo prima. No, ma è incredibile, il traffico, non si sentiva. Ma da dove cazzo trasmettono questi qua? Ma tu sei audio leso un po'. No, ma ti assicuro, ma me lo dicevano anche là, anche da dietro vetro, non si sentiva. Si sentiva male pure il traffico, ma da dove cazzo trasmettono questi qua? Pagati da noi. Bisognerebbe togliere qualche soldo a questi qua. No, ma perché? Ma dai, su, dai. Allora, Rocco? Come stai, man? Scusa, allora, ma la linea è un po' macchiata. No, figurati, non c'è problema. Allora, io voglio capire una cosa. Questa giornalista francese ti accusa di averla molestata. Dice, aspetta, a quanto tempo fa risale questa roba? 2006. 11 anni fa. Uno dice, già dopo 11 anni ti viene in mente questa cosa, perché? Cioè, è già una follia. Comunque, quando eravamo nei corridoi, mi ha preso al collo e mi ha infilato la sua lingua in bocca. Ho dovuto chiamare la sicurezza. Ma è successo questo per davvero o no? Nei corridoi là? La verità è che mi è successo tante volte con più soubrette anche in Italia, ma non con lei, questa è la verità. Cioè, poi, ti è successo più volte di mettere le mani addosso a qualcuna? No, di scambiare, di baciarmi con ragazzi, con fans, con persone anche che sono conosciute, vivo, tanto. Vabbè ragazzi, no, non prende bene il telefono, dai, su, rimandiamo ad un'altra volta, dai, dai. Sai cosa ho scoperto, David? Che esiste, l'astrologa della Lega Nord. No, anche quella. L'astrologa della Lega Nord. Una che fa il tifo per la Lega e dice di essere un'astrologa. Sentiamo qualche puntata che ha fatto lì a Radio Padania, anzi Radio Calabria, ex Radio Padania. C'è Plutone che è nel Capricorno, perché nel Capricorno abbiamo l'altro tizio lì, Renzi, e quindi porterà a far pagare personalmente coloro che governano, in primis Matteo Renzi, che è il segno zodiacale del Capricorno. Ci sarà un nuovo quadro politico che porterà sicuramente sul carro dei vincitori coloro che si sono spesi. E chi è che si è speso di più? Cito Matteo Salvini, segno dei pesci, che ha abbracciato le problematiche più difficili delle fasce più deboli. Gli sbarchi continueranno finché ci saranno interessi occulti, dice Anna Maria, l'astrologa. Questi si attaccano a tutto. Interessi occulti. Si attaccano a tutto. No, ma la cosa più strana è l'astrologa della Lega. Cioè, per questo dovrebbe dire tutto, no? Per quanto concerne gli sbarchi, abbiamo Giove, che è il pianeta del denaro, e finché c'è qualcuno occultamente che dà questi soldi per non portarseli in Europa, continueranno gli sbarchi. Quindi bisogna tagliare un po' questo, perché ci sono degli interessi, quindi è un modo che ci sono degli interessi nel nostro governo, prendono questi soldi, ce li fanno sbarcare a noi senza capire che poi questo genera il caos. Poi parla anche con Varin. Marte ci dice ribelliamoci. Marte, capito? Marte ci dice ribelliamoci. Facciamo il referendum sullo Ius Soli, che peraltro ancora non è stato approvato. Comunque, Marte, capito? Ma Marte ci viene in aiuto e dice ribellione, farsi avanti. C'è bisogno anche di un referendum per far sì che devono chiedere al popolo cosa abbiamo bisogno. Quindi avere il coraggio di fare un referendum e magari sullo Ius Soli, esatto, chiedergli cosa ne pensano, e andare di in piazza un pochino di più. Ius Soli, no, Ius Soli. Comunque chiamiamola, com'è che si chiama di cognome questo, Anna Maria, non mi ricordo. Adesso, Anna Maria, adesso. Adesso, capito? Ma adesso cosa? Adesso un cazzo. Adesso chiamiamo l'ambulanza, adesso infatti, altro che. Adesso chiamiamo, ma dai, anche i pompieri chiamerei io. Ma tutte le forze dell'ordine, ma soprattutto un'ambulanza ben attrezzata per malati di mente, dai. Anna Maria, adesso. Ma adesso chiama l'ambulanza, non lei, dai. Farmaci. Pronto? Sì, signora, adesso? Con chi parlo? Sì, sì, buonasera, qui Radio 24, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Molto bene, grazie. Bene. Lei è una cartomante? No. Una un'astrologa. Quali sono le previsioni che si possono fare sulla Lega Nord per i prossimi mesi, per le elezioni? Quali previsioni ha fatto lei? Allora, io ho fatto le previsioni sulla giornata del ballottaggio. Sì, me le dica. Ottimo. Allora, glielo dico subito. Innanzitutto dobbiamo partire anche che questo ballottaggio sono favorevoli per tutti i partiti. In che senso? C'è aria di grandi cambiamenti nello scenario politico di questo paese. Ma cosa vuol dire favorevoli per tutti? Non possono essere favorevoli per tutti, signor. Qualcuno vincerà, qualcuno perderà. Aspetta, ti dico subito perché. Mi dica. Sentiamo, perché tutti i partiti avranno i loro suffragi. Sì. Però ci saranno alcuni che spariranno dallo scenario politico di questo ballottaggio. Chi sparirà? Chi sparirà? I partiti minori, quelli che sono... che non raggiungono il 5% dei suffragi. Beh, quelli sono già spariti, signora, non partecipano al ballottaggio direttamente. Però, perché altrimenti... No, guardi, no. Io le posso dire che la Padania, io non ho niente, non faccio un lavoro di parte. No, figuriamoci. No. Allora, abbiamo Mercurio a 8,53 nel segno del cancro. E allora? Abbiamo che è il pianeta dell'intelligenza. Sì. Abbiamo Venere che ha 19,42 del segno del toro. Sì. Sì. Abbiamo Marte questi. Che è nel cancro. Abbiamo Giove che è in bilancia. Abbiamo quanta Vano gente? Abbiamo Nettuno nei pesci, abbiamo Plutone nel capricorno, il sole nel cancro e la luna nel leone. Allora bene. Soltanto Aspetta. Leggendo la carta astrale di quella giornata, siccome abbiamo la luna nel leone, senza star qua a dire delle stronzate, assolutamente. Allora, sto per esplodere, però la luna è nel leone, vuol dire che le persone daranno molto da fare. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che le persone avranno voglia di andare a votare. Poi abbiamo il sole nel cancro, quindi questo voto sarà molto meditativo, perché voto porterà a una riflessione anche per le politiche. Quindi c'è un cammino che inizia la domenica 25/6 e lo porta avanti. Chi vincerà? Scusi se la interrompo, poi torniamo. Per conto mio vincerà la Lega, prenderà un sacco di suffragi. Berlusconi con i suoi di destra farà una specie di aggregazione e quindi dovranno allearsi questi partiti poter concentrare una forza omogenea. Su tutti i giornali la linea di questi ballottaggi sarà la Lega. Mi dispiace, la sinistra perderà. Come fa a vedere dalle stelle che la sinistra perderà? Ci sono i pianeti collegati al segno del Capricorno. Questo è importante. Che vuol dire? Ci sono anche le persone che hanno cose nascoste. Cioè abbiamo un Nettuno e verranno a galla tutti gli inciuci, tutte queste cose qua. Capito, Davide? L'unica cosa che vedo, cara signora, è che mi stanno girando le palle in modo verticoso a sentire queste cose. Ma come sono contenta che ti girano le palle. L'unica cosa che vedo in questo momento, perché a sentire le sue valutazioni, cioè che la Lega sarà determinante, che è cosa che leggiamo sui giornali da giorni sulla vicenda di Genova. Sono maga, sono una persona che amo l'astrologia si studia sempre guardano i pianeti come si muovono. A Genova chi vince? A Genova vincerà la Lega. Chi è il candidato sindaco? Non avranno tanto successo. Sono fuori dal ballottaggio per forza, signora, quindi. Chi è il candidato della centrodestra a Genova? Scusi, signora. Come si chiama? Queste le stelle non lo dicono, basta leggere i giornali. A Padova. Lo sapete bene che è candidato, quindi a Padova chi vince, signora? Prenda qualche altro mago, si faccia dare le previsioni. Ma a Padova chi vince? La maga della Lega. Bitonci. E a Verona chi vince? Lasciativo Parenzo e alla defecazio non ci penso. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cruciani, siamo al Regent Park di Londra, siamo tre italiani e una simpaticissima ragazza francese, e lei ci ha spiegato una bellissima parola che sarebbe... Oui, bonjour, je voulais dire que je suis femme fontaine et je l'assume pleinement, voilà, bisous. Ciao, ciao, al top, eh! Allora, ragazzi, vi traduco subito ho già capito cos'è la Fontaine. Non è Oscar La Fontaine. Il grande leader Oscar La Fontaine. No, è femme Fontaine, significa la donna che squirta, sostanzialmente. No, beh, Fontaine, pensavo fosse Oscar La Fontaine. Per tutti gli appassionati del genere, domani cercheremo di fare un collegamento ad hoc con il signor Rocco Siffredi. Mi raccomando, non è da perdere. Domani cercheremo di fare un collegamento ad hoc con il signor Siffredi. Rocco Siffredi, uno dei grandi simboli dell'Italia. Comunque, la femme Fontaine. La femme Fontaine sarebbe la donna che scusa. Oscar La Fontaine è un politico tedesco, ex presidente dell'SPD. Chi se ne frega? Lei ha detto "je l'assume pleinement". Sai che significa? Tu hai capito solo la prima parte. La seconda parte non l'hai capita. Sì, ripeti un attimo. Cioè ne sono "je l'assume pleinement". Cioè ne sono non hai capito. Ne sono perfettamente consapevole. Solo ne sono quasi quando uno dice "je l'assume pleinement", cioè ne sono oltre che consapevole anche un po' orgogliosa, cioè, capito? Ci fa piacere per lei. Mauro da Mantova scatenato. No, ma chi è? Contro tutto il mondo, anche contro di noi. Ma perché? Il signor Mauro non esiste più, c'è solo Donato da Varese. Sì, ma per te c'è solo Donato, per me ci sono tutti. Tra i miserabili. Per me ci sono tutti. Caro se Mauro, se uno deve scegliere un miserabile, sceglie Donato da Varese. Caro Mauro, so che molti ascoltatori aspettano questo momento, eccetera. Io ti accolgo qui sempre a braccia aperte. Ma figurati. Il problema... Lo hai dimenticato anche tu, tu lo disprezzi. Io non è che l'ho dimenticato, lo consideri un poveretto, un cialtrone, un maledetto, con quei capelli biondi alla Trump, un personaggio patetico, mi hai detto più volte, un patetico. No, io non l'ho mai detto, no. Sai che c'è? Poi mandami dai, un poveretto. Ma come fai a perdere tempo con quello schifoso? Fortissimi. Ma perché perdi tempo con quello schifoso? Perché? Ci vai a cena, ma che schifo. Due volte, tre volte, insieme ad altri. Ma è normale, guarda, anche mezza è già troppo, capito? Ma mezza. Questo sbagli. Tu questo potresti sbagli. Ambire a uscire, che so, come siete la film meccanica con Bernard Henri Levy. Ma che ad cazzo me ne frega, meglio Mauro Domando. Se io volessi organizzare una cena, ad esempio, inviterei Bernard Henri Levy, avrei delle cose da imparare. Ma chi se ne frega? Che cosa di Bernard Henri Levy, grande filosofo francese? Bernard Henri Levy, ottimo. Oppure con Galli della Loggia, ad esempio, Ernesto Galli della, con Angelo Pane Bianco. Ma che Io cosa preferisco gli dici Mauro dopo con quell'idiota lì? Che cosa gli dici dopo due minuti? Dai, che te non hanno portato gli spaghetti, sai perché? Perché gli De Benedetti il posto? Dice, no, guarda, semplicemente sono in ritardo con la cattura. No, è De Benedetti! Dice, no, guarda, è un ristorante, è normalissimo. Non è che... Dai, ma ti rendi conto? Senti il delirio, senti il delirio. È successo che quel coglione dei Cruciani mi ha chattato ieri notte alle 4:30, che ero in chat con una bella fighetta, tra l'altro. E mi dice, mi va a intervenire una roba e l'altra, mi chiama alle 8:15 stasera, poi 8:20 mi butta giù, non mi chiama più. Ma vai a fare in culo, ma chi cazzo sei? Ma io non t'ho neanche più caccato, ma ti mando a fare in culo, ma chi cazzo sei? Ma sei tu che hai bisogno dell'audience, perché se io te lo faccio l'audience in quella fottuta trasmissione di merda, se non intervengo io nessuno te lo caga più quella trasmissione lì. Come invece che ascoltino la Zanzara per ascoltare quell'idiota di Parenzo o quelle coglionate che dici tu, Cruciale, ma vaffanculo, va. Mi hanno chiamato 8:15, a 8:20-8:25 buttano giù la chiamata, perché cade la linea. Chiamo una volta, mi dice la Nicole che glielo dice. Aspetto 10 minuti, un quarto d'ora, e qui non chiamano. Allora richiamo, ho detto, ma gliel'hai detto Nicole? Fa sì, glielo ho detto, se non chiamano fai, non so cosa dirle, signor Mauro. Ok. E allora sono sbroccato. Tu vai a prendere in culo tua madre, tua sorella, tuo fratello, vai a fare in culo te la tua trasmissione di merda, perché io te non sono nemmeno cacato, né te nella trasmissione e né tutti voi, perché io non ci guadagno un cazzo, ok? Io non ci guadagno un cazzo, siete voi che ci perdete, perché se io ho visibilità e la gente ha piacere di sentire me, Non è che io li pago o li costringo, probabilmente valgo di più di quel coglione che hai a fianco, perché se quando mi metti con le hashtag io arrivo a 72-76 e quel coglione raccomandato di merda, ebreo schifoso, arriva al 26 al massimo, perché lui non vale un cazzo. Ma chi è? Ma che ne so, cita delle, 26? Cita delle cose assurde. Ma cos'è? 26, 76. Ma di radio? Cos'è? Impazzito ormai. Maurone! Maledetto, maledetto. Ti accolgo maledetto. Sempre a braccia aperte qui, il nostro Napalm. Il nostro Napalm 51, come cazzo era? Allora, tieni il tuo coglione. Vai a leccargli il culo al Cairo e vaffanculo te e la tua trasmissione di merda. E io ti mando a fare il culo forever, ok? Tanto io non è che ho bisogno di te, sei tu che hai bisogno di me. Quindi vai a fare in culo. Vedremo cosa dura la zanzara senza i miei interventi. Voglio proprio vedere. Non vedo l'ora. Io ho visto 3 mesi senza il mio intervento. Non lo cagava più nessuno. Non sapevano più chi mandare in onda a fare audience. Hanno chiamato il rabbino di Milano, una roba imbarazzante. Una cosa imbarazzante. Comunque lo beccano il culo loro, non io. Prima non ci perdono loro, non ci ho mai guadagnato niente. Sono loro che ci perdono. Comunque vive in un mondo tutto suo, eh. Totalmente. Poi soprattutto non è un cazzo da fare dalla mattina alla sera per colpa di Monti e Benedetti. Posso dirti, eccetera, esatto, eccetera, l'unico modo lui. Che noi abbiamo per distruggerlo e annientarlo definitivamente è non parlare più di lui, né far sentire questo, perché questo qui rivitalizza l'infame. Cioè il maledetto cosa fa? Quando si sente in onda si rieccita e si risente importante. Questo. Proviamo per un mese, da qui a fine luglio, a ignorarlo, cioè no, proprio non sentirlo più uno che scompare. Il maledetto scompare, vedrai. Fabio da Piacenza, vai Fabio, vai. Ciao ragazzi. Dimmi. No, niente, io volevo rispondere a Lorenzo, quel ragazzo di prima che lui diceva che con la sua fidanzata... Sì, fa delle cose a tre, sì, fa delle cose. Guarda, a me ha ribollito il sangue quando lui ha detto... Sì, sì, cioè non si può nel 2017, io sono sposato con una figlia, cioè di cazzate ne ho fatte... ne farò anche perché c'è un lavoro che mi porta a essere in giro dalla mattina alla sera. Allora... Ma io dico, ma come cacchio fai a vedere la tua ragazza, magari diventerà tua moglie, che si fa trombare da un altro? Ma come cacchio amico, ma se gli piace, ma se a lui piace, ma se capito, a lui piace. A me dà fastidio quando mia moglie gli guardano il culo, magari uno che la guarda più di 3 secondi, secondo te? Tu sbrocchi per queste cose così banali, così borghesi, mica è colpa sua, di quell'altro ascoltatore. Lui piace fare vedere la propria moglie, la propria ragazza scopata da un altro, ma sarà libero, non è pieno di gente che è così, Ho capito, però non so se ci hai fatto caso, soprattutto chi? Maschi, non femmine, maschi. Amico mio. È questa cosa che mi ha fatto chiamarvi. Sì, perché ma se ci temo che alcune donne la pensino come Cruciani, cioè, temo che non ci sia grande differenza. A proposito, in Elena caso. Da Milano, sentiamo Elena da Milano. Ecco, vediamo se vuoi parlare di legge elettorale. Dimmi. Mi senti? Sì, ti sento tesoro. Allora, io volevo dire a Parenzo due cose, perché stavo ascoltando il podcast di ieri, quindi io sono sempre un po' in ritardo, e Parenzo ha tirato fuori la storia del cavigliere. Beh, sai, qui ogni tanto la maggioranza silenziosa ha un guizzo, come dire, no? Il mondo un po' si risveglia. Silenziosa, però, sono settimane ormai che gli mando messaggi, Parenzo quando vuoi, Parenzo quando vuoi. Ah, sei tu, cara Elena, la signora. Amica mia! Come sta, cara signora Elena? Buongiorno. Buonasera, cara Elena. Dimmi subito chiaramente, te lo scopresti, Parenzo? No, subito, chiaro. Dimmi, chiaro e tondo, chiaro e tondo. Con il suo charme, con la sua eleganza, cioè, gli dici di no, voglio dire. Vabbè, adesso non esageriamo, altrimenti Mauro si arrabbia, signor Mauro. No, per esempio, ma tu toccheresti con un dito? Hai visto mai in foto il signor Mauro da Manto? È agghiacciante. Vedi, persona per bene, buon gustaia, no, la signora. Ti giuro che ascoltarlo adesso, tra l'altro, mi è venuto tipo l'orticaria, perché io quando c'è... Tu non toccheresti nemmeno con un dito il signor Mauro da Manto. Ma neanche con i guanti. Un tuo intervento da qualche parte, forse a Verona, era orribile, mamma mia. Cioè, orribile. Mauro da Manto, Elena da Milano, 2 punti. Mauro da Manto è orribile. Guarda, sì, no, Mauro, mi spiace, ma... Potrei offrire, vedi, una cena a questa simpatica signora. Beh, già un passo avanti. Scusa, Elena da Milano. Scusa, Elena, no, che cosa ci trovi in Parenzo di affascinante? Vabbè, ma questo non è il tema di discussione. Il modo in cui lui si approccia alle donne, cioè lui le corteggia, fiori, teatro, zagrebeschi, eccetera, e poi le schiena. Zagrebeschi. E poi lo schiena. Anche zagrebeschi dovresti citare sempre. Scusa, Elena, tu possiedi cavigliere? Possiedi cavigliere, amica mia. Sì, infatti ti ho mandato anche la foto, perché ne ho ben due. Hai mandato la foto qui su WhatsApp, adesso oggi non la controllo bene. Poi te la giro. Questa questione Comune delle Cavigliere, sai come Farenzo, cioè potrebbe... sulle Cavigliere non mi sono trattenuta veramente, sono settimane che volevo telefonare, non l'ho fatto, però sulle Cavigliere, cioè, scusa, cosa faresti, signor Farenzo, tu? Cioè, apre... adesso lascia stare, nel merito non si entra mai. No, la però... domanda vera è cosa farebbe Farenzo, cioè quello mi interessa. Beh, questo ha già detto, si è già espresso con una frase semplice: teatro, ristorante, oppure teatro, oppure cinema, e poi schierare. E poi schierare anche con una certa violenza, l'ha detto. Dottore. Esatto. Dottore. Plepalale. No, Lorenzo, non attacca. Vabbè, Elena, allora poi combino io, combino io. No, va bene. Senti, scusa, Milano, per caso, tu squirti? Per caso, così, passato. Solo in compagnia di Farenzo. Però, no, adesso questo non ci pigliare per il culo, perché non lo sai, perché non lo puoi sapere. Normalmente squirti o no? Io sono vicino a Radio 24, abito esattamente vicino a Radio 24. La prossima volta che viene Farenzo, me lo dici e vediamo, combiniamo. No, ma dico, la semplice domanda, la signora Elena squirta o no? Ma magari non insistere con la signora. Quel mistero velato a Parenzo, adesso non diciamo cose vuole, così vuole lasciare il mistero per il vostro incontro. Ma non ci sarà nessuno adesso, grazie Natania, di tutto, amica però, mia! Non ci sarà nessuno incontro, Natania, rispia. Che donna fortunata. Beh, adesso lo esageriamo, adesso donna fortunata, ragazzi, no, adesso vedete, se ce n'è è ribaltamento, una dai. Su due passi, perché poi invece la maggioranza la pensa come la signora Elena, perché la maggioranza ha buoni gusti, ma voglio dire, tu invece selezioni in entrata delle telefonate agghiaccianti. Nulla. E dai un'immagine diversa del paese, vedi, questo è il paese Michele reale, da Milano sentito. Michele da Milano, Michele, dimmi Michele, dimmi. Vorrei che sono tutto sudato a Parenzo, Mamma mia, tanto la maggioranza silenziosa non suda. Non è della maggioranza silenziosa. Una delle cose più disdicevoli è quella di sudare. No, sudare è normale, dai. Cioè, bruttissimo. Perché oggi c'è più umidità. Anche le donne che sudano è ottimo. No, ma anche è totalmente inelegante. Posso dirti che è veramente inelegante sudare? Le papabine eleganti. Ma che cazzo dici? È una cosa non sudi perché non lavori, è diversa la cosa. No, no, io lavoro anche, cammino molto a piedi anche d'estate, ma io per fortuna non sudo. La mia epidermide non suda. Vabbè, Michele, che vuoi? Lì al fresco. Michele, lì al fresco, allora non suda, perfetto. Ma vabbè, Michele, che cosa hai chiamato a fare? Dimmi, cosa hai chiamato a fare? Ho chiamato per dire che Parenzo è un falso. Perché è un falso? È un falso perché lui recita. Ma recita cosa? Non nessuno recita. Recita perché dice sempre le stesse cose. Poi? E quindi per me lui fa la... come si dice? Cosa? La controparte a te. Vabbè, non sai che cazzo dire. Domenico da L'Aquila. Per me non è naturale. Vabbè, vai, noioso, a fare il culo. Domenico noioso, da L'Aquila. Lei è noioso. Domenico da L'Aquila, vai. Eccomi. Dimmi, caro, dimmi. Ha pure rimorchiato il nostro perfetto. Capito? Graziante, oh. No, complimenti. Vabbè, allora la cosa normale. Forse alla Cavigliera non ti ha detto che c'ha 3-4 dildo da usare su di te. Vedi, io dico la volgarità di quest'uomo poverino, che non so chi rispetto sia, come alla si chiama. Grazia di Elena, per esempio. Ma in generale, rispetto al paese reale, la volgarità di questo, che sicuramente suda peraltro. Ti ma ha detto solo una parte della serata, insomma. La volgarità. Vabbè, di questo perché uomo. Dovrebbe usare comunque i dildo? Comunque non devi omettere questioni importantissime. Quali sarebbero le questioni importanti? Ma mica c'è l'auricolare, io sento l'eco. No, io sento benissimo. Non lei sente l'eco perché è bacato in testa. Quindi, siccome c'è il vuoto, sente la eco in testa. Avendo nulla dentro, è evidente che sente l'eco. Dice: che cazzo è qua? Sono io, la mia voce. E appunto, non c'è niente. Per forza. Vabbè, che vuoi? Il cracchiante ha rimorchiato, unico. Dimmi, Domenico, dimmi, che vuoi? Non puoi omettere fatti importantissimi. Cioè? Spesso e volentieri. Sputi merda sul sud, sul meridione. Io non sputo merda, come dire, dipingo la realtà, come dire. Fotografo la realtà di un paese irrecuperabile. Hai perfettamente ragione. Ma però... hai sentito come parlano ad Acri? Lo hai sentito chi si presenta alle elezioni ad Acri? Ma di che parliamo? Ho capito, dai. Ma devi dire anche che i meridionali, c'è stata una diaspora... peggiore. Ma non mi rompere i coglioni con ste stronzate, Domenico, dai, su. Guarda, io ti lascio, ti accarezzo e vai a prendere un tè caldo, come dice il mio amico Caressa, vai a prendere anche una pillolina, come diciamo invece noi, un'ambulanzina, una serata tranquilla, calma, a lettino, perché è già tardi, 20:50. Ah, regà, ci sentiamo domani, ciao. Ciao, Lorenzo, ciao. Quando vuoi. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Parenzo, se faccia affari poi.